Buongiorno Chiesa, grazie, grazie anche al gruppo Lode e voglio anche ringraziare voi Chiesa, perché penso che anche se avessimo questo gruppo Lode a casa, facciamo così, nella nostra cameretta, non sarebbe la stessa cosa adorare senza tutti quanti voi. Pensa che la persona che ti sta a fianco, la persona che ti è vicina, è parte integrante del piano di Dio per la tua vita. Anche per vivere questi tempi speciali alla presenza sua, tutti quanti insieme. Non spaventatevi per questo leggio nuovo, non abbiamo perso, rotto il vecchio, per oggi troverà molto facilmente, vedrete subito, significato perché c'è un bidone della spazzatura qui sul palco oggi. Io sono uno di quelli che promuove la differenziata e quindi dico sempre che qui dentro, nell'indifferenziato, dovrebbe esserci sempre meno spazzatura. Non sempre ci riusciamo, molte volte le riempiamo i sacconi, però questo è un altro discorso. Ci siamo lasciati con la serie di Filippesi, sappiamo che siamo in questa serie due domeniche fa, però voglio farvi notare, farò subito notare questa cosa. Io non sono già in ritardo, vero? No. Già ho visto rosso lì. Scusate. Allora, ritorno serio. Domenica scorsa non è stata una pausa da quella che è la serie che stiamo facendo come chiesa. E il pastore Anthony, che avevamo settimana scorsa, credo che relativamente sapeva che punto eravamo, pur se voleva in qualche maniera, non credo si sarà interessato più di tanto a capire che cosa la Chiesa stava predicando nelle domeniche precedenti e successive, e ha predicato qualcosa di molto chiaro. Per chi c'era, c'era un vasetto, il classico esperimento che poi è una tecnica di caccia delle scimmie, che se metti le noccioline dentro e la scimmia mette la mano nel vasetto, poi pur di non mollare quelle noccioline rimane col pugno bloccato e quindi questo facilita ai cacciatori, i bracconieri, insomma, di catturare le scimmie. E il messaggio basato su Ebrei 12 era: deposto ogni peso e ogni peccato, era proprio afferrare Cristo. Ed è stata fatta questa specifica anche fra una differenza tra ciò che è peso e ciò che è peccato. Senza che sto a ripredicare quel messaggio, se te lo sei perso, vallo ad ascoltare. Peccato, sappiamo cosa è il peccato. Peso non necessariamente è qualcosa che è peccato, non necessariamente è qualcosa che è sbagliato, ma è comunque qualcosa che sta intervenendo in qualche maniera per impedirci di afferrare Cristo pienamente, completamente. Questo era il nocciolo, il succo del messaggio. Con due settimane fa era il pastore Mirko invece che predicava, abbiamo parlato dei cattivi operai, ci ricordiamo, e l'ultimo verso, che in realtà fa da aggancio, perché siamo ovviamente in una sequenza di versi, l'ultimo verso, Filippesi 3,4, diceva, è sempre Paolo che parla: se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Ci eravamo lasciati qui. Guardate ora come continua la lettera ai Filippesi da parte dell'apostolo Paolo. Lo possiamo leggere insieme. Capitolo 3, dai versi 5-11. Qui è Paolo che parla. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa, sottolinea, ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione la comunione delle sue sofferenze, divenendo conformi a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Tanta roba, tante cose che, non lo so voi, quando leggo, ho letto, diciamo, la prima volta questi versi, e che cosa sta dicendo? Qua non si capisce niente. C'è tanta roba. So che in comunicazione non si dice mai, per avere una comunicazione efficace, dicono che non devi mai dire la frase che sto per dire. Anche se non mi è solito, io oggi sarò lungo. Ma non perché voglio essere lungo, io in genere cerco sempre di stringere al massimo, ma perché i versi lo richiedono, altrimenti ne usciamo con tante parole che potrebbero ancora una volta sembrare prive di significato e non riusciamo a collegarle a noi. Nei primi versi, nel primo verso, verso 5 e 6, l'apostolo Paolo sta parlando di cose che forse a noi non hanno tanto senso. Ebreo, di ebrei, della tribù di Beniamino, fariseo, per quanto riguarda la legge, irreprensibile, persecutore della Chiesa. Dice, vabbè, sono cose che riguardavano lui, a me. Posso andare avanti? Ok, non mi riguarda, vado già al verso successivo. In realtà l'apostolo Paolo sta parlando di quei quattro elementi, parametri, sono fattori che oggi la psicologia sociale definisce parte della cognizione sociale. Di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando di queste quattro paroline qui dietro. Le origini. L'apostolo Paolo dice, parla delle sue origini, cioè a chi apparteneva, a chi era famiglia praticamente. Parla della sua posizione sociale religiosa, era fariseo, i farisei erano parte, una parte specifica del popolo ebraico, una sorta di elite, poche persone, sappiamo anche che Gesù non è che parla tanto bene dei farisei, perché? Perché loro erano così attenti a tutti i formalismi, erano proprio quelle persone religiose che conservavano una certa esteriorità, lo abbiamo sentito due domeniche fa, quanto l'esteriorità sia pericolosa e contraddistingua proprio i cattivi operai o comunque i religiosi, e lui dice io ero un fariseo, uno di quelli da rispettare, aveva una posizione sociale molto ben chiara, aveva un carattere, una personalità, era tanto fariseo da e con tanto convinto che quello in cui stava credendo, ciò che lui era, era la verità, che era diventato un persecutore della verità con la V grande, Gesù. Quindi una personalità bella, forte, non era, no, che si faceva probabilmente condizionare così facilmente. E poi aveva una reputazione, io, irreprensibile. Cioè l'apostolo Paolo poteva sfidare chiunque, andare da lui e qualcuno poteva dire ma tu non sei bravo in questo. Lui diceva, ma come ti permetti? Io sono irreprensibile in questo. Non sbaglio mai. Questo era l'apostolo Paolo. Quindi se pensiamo a queste quattro cose come quattro materie della scuola, ok? E c'è una pagella ad un certo punto, l'apostolo Paolo aveva 10 in tutte queste quattro materie. Uno di quelli, un secchione, mettiamola così, parlando il linguaggio degli studenti. Ma ad un certo punto l'apostolo Paolo incontra Gesù. Sappiamo come lo incontra in questa maniera miracolosa, di impatto. Lui aveva bisogno di prendersi un bello schiaffo in faccia da Gesù sulla via di Damasco, e lì da subito, in qualche modo, tutto ciò che lui aveva costruito, ciò che lui aveva definito essere di guadagno per se stesso, lì si rivela qualcosa da nulla, tanto da arrivare a definire danno, prima danno, segna danno, dove c'è il segno di pericolo sul tuo foglietto, hai visto che c'è un segnetto di pericolo? Danno, perché effettivamente non è che sta dicendo che avere una buona reputazione o avere una buona famiglia o avere una bella personalità sia un peccato o qualcosa di brutto. È un danno nel senso di pericolo. Cioè è pericoloso, che cosa? Quello che l'apostolo Paolo in realtà ha detto a tutte le chiese. Ti ricordi in Efesini 2? Segnalo sotto danno, segna semplicemente Efesini 2, 8, 9, quando l'apostolo Paolo ricorda agli Efesini che siamo salvati per grazia, mediante la fede, questo è il dono di Dio e non per opere, affinché nessuno si vanti. Ai Corinzi diventa ancora un po' più, se vuoi segnare, 2 Corinzi 10, verso 4 e 5, dice questo, che la nostra battaglia, le armi della nostra battaglia non sono carnali, sono spirituali. E qual è la nostra reale battaglia? Se non abbattere ogni fortezza e ogni ragionamento nella nostra testa che si eleva orgogliosamente davanti, di fronte alla conoscenza di Dio. Qui si spiega ancora meglio quella parolina che lui ha utilizzato con i filippesi, danno. È pericoloso fare affidamento su quelle 4 cose, ma poi lui dice ogni altra cosa, che possa diventare un'alternativa, un limite, un blocco, una forma di pregiudizio o giudizio che io mi posso dare di essere giusto, di essere a posto, di essere sufficiente a me stesso, di aver fatto più o meno quello che dovevo fare e quindi basta Dio. Questo è pericoloso, perché ci toglie da che cosa? Dalla conoscenza reale, autentica di Gesù. E per essere ancora più incisivo, l'Apostolo Paolo aggiunge quella seconda parolina, la spazzatura. Ora, noi traduciamo in italiano con spazzatura. Però non è il sacchetto della plastica che facciamo noi, o il sacchetto della carta, oppure il nostro indifferenziato. Per loro la spazzatura era la pupù. Se fossi stato in un contesto un po' più giovane, cioè, non che stai, però, insomma, avete un'altra parola, quella molto più forte, ve la lascio intendere. Cioè, tutte queste cose sono escrementi. Questo sta dicendo l'Apostolo Paolo. Di fronte a Cristo, qualsiasi cosa, ogni cosa, lui dice, qui non più soltanto magari il tuo carattere, la tua personalità, ma aggiungerei il tuo lavoro, la tua carriera, Luigi, il tuo pensare, la tua logica, le tue capacità, i tuoi talenti, il tuo saper fare, il tuo non sentirti adatto, il tuo non essere capace, il tuo sentirti da meno, perché anche la pagella può andare, che in quelle 4 cose e tutte le altre cose ci possiamo mettere il 2. E anche quel 2 ci tiene fuori dalla conoscenza di Cristo, da qual è la potenza della grazia di Cristo. Tutte queste cose sono escrementi che devono essere considerati tali, e l'Apostolo Paolo sta dicendo che la pupù non si conserva, la dobbiamo buttare, perché questa diventa pericolosa se ce la teniamo, puzza. Ci dà fastidio, e quella puzza poi diventerà così insinuante nel nostro naso, così forte, che ci distoglierà dal profumo di Cristo. È allucinante quando noi leggiamo queste cose. E la domanda che io mi sono posto: Luigi, ma tu sei arrivato ad avere questa conoscenza di Cristo? Cioè, effettivamente, Luigi, hai sentito la pienezza del profumo di Cristo? E così è nato un po' in me tutto il messaggio, perché non ho ancora predicato, ora sto per iniziare. No, non ho ancora iniziato in realtà. Perché adesso, cioè mentre pensavo a tutta sta roba, mi è venuta in mente una chiacchierata che ho fatto con un ragazzo un paio di mesi fa, inizio estate, eravamo lì sui divanetti. Sapete, di quelle chiacchierate non programmate, spontanee. Io sto invitando i ragazzi, ma invito tutta quanta la chiesa a chiacchierare. Ma chiacchierate spontanee, ma non di che cosa hai mangiato, vabbè, vuoi sapere pure che cosa hai mangiato, che cosa hai cucinato, va benissimo. Però una chiacchierata un po' più profonda. E così, mentre eravamo su questo divano con questo ragazzo ha incominciato a parlarmi di sé. Così, non era un appuntamento, niente di che. Eravamo in attesa che iniziasse qualcos'altro, non so se era un venerdì o... Invito questo ragazzo, invito Mattia. E Mattia mi dice, sì, facciamoli un applauso. Mattia mi dice qualcosa che in quella serata ho apprezzato tantissimo. Mattia si è battezzato poi un mese dopo, più o meno, rispetto a quella chiacchierata, ad agosto, al rifugio. E mentre mi preparavo, mi sono tornate in mente alcune parole che lui mi ha detto. Insomma, ve le faccio dire direttamente da lui. Ciao. Io quel giorno parlavo con Luigi di come ho sentito per la prima volta l'amore di Dio e di come lo stavo provando in quel periodo. E, in pratica io ho sempre conosciuto, diciamo, Dio, però non ho mai saputo veramente che mi amava, perché non lo sentivo, non mi sentivo amato. Però ci fu un periodo in cui mi fece conoscere una persona, tramite la mia ragazza, Dio mi ha fatto percepire il suo amore. Io sono una persona molto fisica e quindi magari per questo ho deciso di scegliere una persona che mi potesse dare affetto. Però attraverso di lei Dio mi ha detto che l'amore che lei mi dava era solo una piccolissima parte dell'amore che Dio mi ha dato, mi stava dando e mi avrebbe dato se l'avrei accettato. E quindi così io mi sono sentito molto più motivato nella vita, sentivo questo amore. E ho iniziato più a leggere la Bibbia, più a pregare, ho iniziato a mettermi, diciamo, in gioco, in chiesa, ad esempio ballando, cosa che non avrei mai fatto, oppure suonando anche ogni tanto. E quindi là è iniziato il primo pensiero del battesimo, che, non lo so, poche settimane prima non esisteva nella mia mente. E quindi io, sentendo questo amore, mi sono sentito molto motivato a fare tutto, anche andare a scuola, ad esempio. Io ho avuto sempre problemi a scuola, sin dalle elementari prendevo bruttissimi voti perché ho avuto problemi, problemi di comprensione, però io sono andato oltre questi problemi di comprensione, oltre queste cose pure certificate, e io ho scelto di seguire Dio anche nelle decisioni che Lui voleva per me. Quindi ho cambiato anche scuola dopo che ho preso 5 debiti nel primo anno e volevo lasciare la scuola. E Lui mi ha piano piano dato la forza, e proprio in quel periodo io ho iniziato a prendere voti a scuola che per me erano impossibili, e tutt'oggi li prendo. E parlo di voti perché per me è stato l'esempio che Dio c'è stato nella mia vita, e Lui diceva: io sono qui con te e ti amo. E questo è avvenuto solo quando io ho deciso di accettare che Dio mi amava, perché è una decisione anche nostra di sentirlo, perché Dio ama tutti, però siamo noi che dobbiamo sentirlo. E quindi niente, ci sono state tante difficoltà, perché anche con l'amore di Dio ci sono delle difficoltà, però ora, dopo il battesimo, sento una pace che non so spiegare e che non ho mai avuto. Grazie Mattia, Signore Gesù, benediciamo la vita di Mattia nel nome tuo, grazie per avercelo donato e grazie perché è testimonianza vivente di quello che fa l'amore tuo nella vita dei figli di Dio, e questo vale per lui come vale per tutti quanti noi, grazie per questo. Mattia è un classico esempio di persona che sapeva riguardo a Gesù, ma che probabilmente non aveva ancora conosciuto Gesù. Ci sono dei bambini, ma ci sono anche gli ragazzi, gli adulti, che conoscono ad esempio tutto dei calciatori, ma tutto, che cosa mangiano, che cosa non mangiano, il numero di scarpe, tutte le squadre che hanno, insomma, che hanno creato la loro carriera, come hanno iniziato e vanno avanti, sanno davvero tutto dei calciatori, però detta alla maniera un po' più popolare, non è che hanno mai mangiato insieme, cioè non è che li conoscono. Sanno al riguardo, ma non conoscono quel calciatore. Credo che non ci sia detto popolare, che ora si azzecchia anche perfettamente, non basta conoscere vita, morte e miracoli di Gesù per dire di conoscere Gesù. Quello significa sapere al riguardo. Conoscere è un'altra cosa, conoscere è un'esperienza, e l'ingrediente fondamentale di questa esperienza è l'amore di Dio. Quando quell'amore ti colpisce e ti mette più o meno dolcemente, cioè magari forse con Mattia è andato con molta dolcezza, con l'Apostolo Paolo l'ha dovuto spiaccicare per terra, con me ha dovuto usare le maniere forti, mi ha dovuto mettere con le spalle al muro, in maniera tale che non dovevo più avere via di scampo. Ma lì si rivela e sperimentiamo proprio l'amore di Dio. Ed è un amore, sì, fatto di sentimenti, ma è un amore anche che diventa atto volitivo, come diceva Mattia. Lo devi volere per te. E devi capire che cosa produce questo amore di Dio nella tua vita, e nella, così come nella mia vita. Verso, io devo tornare intanto su, chiedo scusa, verso 10, quindi andiamo al 10 e poi torniamo un po' indietro. Verso 10, e puoi segnare questa frase, l'Apostolo Paolo dice allo scopo di, quindi evidenzia chiaramente qual è lo scopo della vita cristiana. Lo scopo della vita cristiana è conoscere Cristo. Segna questa frase, così per com'è, per quello che puoi più o meno comprendere. Perché ora vediamo effettivamente, questo è il messaggio, ok? Perché Gesù stesso ha specificato in Giovanni 17,3 che la vita eterna è che conoscano Dio e conoscono chi tu hai mandato, rivolgendosi al Padre. La vita eterna è conoscere Cristo. E siccome la nostra prospettiva eterna è già focalizzata oggi, qui, in questo istante, io posso dire che lo scopo per cui sono stato creato, salvato, e per cui Dio ha una volontà per me, è che io conosca Cristo. Perché questa è la vita eterna. Ecco dov'è lo scopo, ecco perché è così centrale il conoscere Cristo. Se non conosciamo Cristo, è come se stessimo, come abbiamo sentito domenica scorsa, probabilmente girando intorno. Abbiamo la parvenza che stiamo andando nella direzione giusta, ma se non siamo focalizzati su Cristo e quindi sulla vita eterna, su quello che Lui ha preparato per noi come eredità, io posso incominciare a girare a vuoto. Ho mancato l'obiettivo. L'obiettivo è conoscere Cristo. E l'Apostolo Paolo ce lo spiega perfettamente. Cioè ci fa comprendere che cosa significa conoscere Cristo. E forse, dopo tutto questo messaggio, oggi riusciremo effettivamente a dare molto più significato anche a tante esperienze di vita, perché ci permetteranno di comprendere e capire di più che noi stiamo conoscendo già Cristo, che siamo in un percorso di conoscenza, perché la conoscenza è una relazione fatta di tante cose. Già pensa alla relazione fra umani, immagina questa relazione con Dio, è una relazione fuori dai nostri canoni, va oltre la nostra logica, eppure siamo stati portati dentro a tutto questo e quindi non vogliamo perderci nessuna sfumatura della conoscenza del nostro Dio. L'Apostolo Paolo utilizza, a conferma anche un po' di questa importanza della conoscenza di Cristo, il termine guadagnare. Voglio fare una piccola parentesi, perché nessuno possa pensare che stia dicendo che noi ci possiamo comprare in qualche modo Cristo. Noi non ce lo possiamo guadagnare. Utilizza questo termine perché è un termine che in realtà spiega anche proprio subito dopo, cioè significa essere trovati in. Ed è lo stesso principio spirituale, vado molto veloce su questa cosa, però è proprio per eliminare ogni dubbio, perché altrimenti sembrerebbe tutto quanto contraddittorio. Cioè detto che abbiamo letto prima, detto che in Efesini è per grazia, ora dici te lo puoi guadagnare, quindi devo fare qualcosa. Come si guadagna questa cosa? In realtà la logica è quella della parabola, parlando del regno di Dio, che Gesù racconta del mercante di perle, che trova una perla preziosa, vende tutto quello che ha per acquistare quella perla. Questo è il principio che c'è sotto questo guadagnare. Io mollo tutto, e lo spiega, lascio tutto. Definisco ogni cosa che si oppone o che anche solo la parvenza di opporsi alla conoscenza di Cristo per afferrare, per guadagnare completamente Cristo, al fine di essere trovato in Cristo. È un po' così, l'ho voluto semplificare. L'ho sempre avuto questa immagine da quando ero bambino. Ad un certo punto ci sarà questo grande registro che si aprirà e Dio vedrà. Ma il Tamura Luigi c'è? Io volevo essere in quell'elenco e fare tutto il mio possibile. Non lo posso meritare, ma io voglio vivere una vita che sia coerente a quella posizione che noi abbiamo in Cristo Gesù, in quell'elenco. Io voglio dire, sì, ci sono Gesù, ci sono, eccomi qua. Ho fatto tutto il mio possibile per essere trovato in te. Come si fa a fare tutto questo possibile? Andiamo. Se giri il foglio degli appunti, vedi quattro spazi completamente vuoti. Luciano mi ha detto, ma oggi è scritto assai su questi fogli, in realtà non ho scritto niente. Sono fogli che lascio tutti quanti a voi. Punto numero uno. Conoscere Gesù significa conoscere la potenza della sua resurrezione. Che cosa sta dicendo Paolo? Paolo ci sta dicendo che se io dico di conoscere Cristo, inevitabilmente devo capire questa cosa. Devo aver sperimentato questa cosa e devo continuare a sperimentare che cosa? Che lo stesso spirito, la stessa potenza che ha portato Gesù in vita dalla morte alla resurrezione è la stessa potenza che si muove in me e in te, che ci ha portati dalla vita alla morte e che oggi ci dà autorità e potere di poter dire no al peccato, no alla morte. Questa è essere partecipi della risurrezione di Gesù. Lo leggiamo, così dice, questo Luigi se l'ha inventato. Oggi sarò pieni versi, proprio perché volevo che era la parola che potesse parlare, non sembrasse nessuna, neanche solo, ripeto, parvenza di pensiero umano. Efesini 1, 18, 20. Egli, Dio, illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è, verso di noi che crediamo, l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza Egli l'ha mostrata. Nella versione nuova riveduta, Diodati riveduta, dice spiegata, mi è piaciuto assai. Quindi, questa efficacia della sua forza, Egli l'ha mostrata, spiegata, in Cristo, attraverso Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. La salvezza, la vita eterna, il perdono dei peccati è frutto di una potente efficacia in Cristo Gesù, che è la stessa potenza, la stessa efficacia che ci è stata mostrata, ci è stata spiegata attraverso la risurrezione di Cristo, che dalla morte è stato riportato nei luoghi celesti e siede oggi alla destra del Padre. Quanto grande puoi definire questa potenza? Dillo tu a te stesso. Quella potenza agisce in te, agisce in me. Questo significa che contro il peccato io non devo stare a capire come devo fare per evitarlo o come devo fare per comportarmi come una persona più brava, più buona. Io devo fare affidamento allo Spirito Santo, lo Spirito di Dio che si è mosso in quell'istante, che opera in me. E questa efficacia è una bomba atomica. Noi abbiamo autorità nel nome di Gesù di dire no al peccato e non perché ci è stato detto che dobbiamo essere delle brave persone che non peccano, ma perché questa è la vittoria per cui Gesù ha sofferto. Ed entriamo nel secondo punto, avere comunione con le sue sofferenze. Abbiamo sentito anche quest'estate, insomma, messaggi che giravano intorno a questo concetto. Gesù è venuto sulla croce, doveva soffrire per i miei e i tuoi peccati. Ora, noi non siamo chiamati ad andare sulla croce, nel senso fisicamente, non dobbiamo pensare che qualcuno debba metterci, almeno nella cultura in cui viviamo, metterci chiodi nelle mani, che debbano bastonarci e prenderci a brutte parole. Brutte parole forse ci potrebbero prendere. Però l'Apostolo Paolo ci sta dicendo che se dobbiamo e vogliamo guadagnare Cristo, se vogliamo conoscere di più Cristo, se vogliamo essere trovati in Lui, dobbiamo passare anche attraverso la sofferenza. Di che sofferenza sta parlando? 1 Pietro 2, 20, 21. Leggiamo. Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. In Ebrei si dice che Gesù ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha sofferto. Perché quindi Gesù ha disubbidito? È un disubbidiente che doveva imparare l'ubbidienza. No, c'è qualcosa che contrasta. Che cosa ci sta dicendo la parola di Dio? In 1 Pietro leggiamo che noi dobbiamo, ci ha lasciato, che Gesù ci ha lasciato un esempio di sofferenza affinché noi seguissimo le sue orme. Cioè sta dicendo che come ha sofferto Gesù, dobbiamo soffrire noi. Però non dobbiamo andare in croce. Gesù non è stato un disubbidiente, quindi non è che qualcuno gli doveva, il padre gli doveva tirare l'orecchio e ti sei comportato male, mi dispiace, mo' devi andare in croce. La più grande sofferenza per Gesù, la più grande sofferenza per me e per te, è simile. Gesù ha dovuto rinunciare al cielo, ha dovuto rinunciare al suo diritto di essere Dio. Si è umiliato, è stato elencato, annoverato fra i delinquenti. Dio. A me e te, sapete cosa è chiesto? La stessa cosa. Discendere. Discendere da quello che è il fondamento, il piedistallo, le basi che ci siamo costruiti della nostra vita. E umiliarci davanti a Dio dicendo tutto questo, il lavoro, la carriera, i soldi, anche la famiglia, la libertà sessuale, la salute, le energie fisiche, tutto questo è spazzatura. Perché so che se definiamo questo come spazzatura, come Gesù ha fatto ad un certo punto, umiliandosi, lasciando il cielo, lasciando quel posto esclusivo dato soltanto a Lui, alla destra del Padre, per venire a incontrare me e te, se noi facciamo questo, diventiamo partecipi delle sue sofferenze e soprattutto abbiamo una promessa, quella di essere annoverati, come dicevamo prima, nella sorte, nell'eredità che è data a tutti quanti i santi, la vita eterna per sempre con Lui. E tutte le benedizioni spirituali che sono già pronte per noi. E l'Apostolo Paolo non è che si ferma, dà un altro colpo, rincara ancora di più la dose. Terzo punto, divenendo conformi alla sua morte. A noi è chiesto di morire a noi stessi. E quel noi stessi può essere qualsiasi cosa. Davanti a te nelle sedie trovi un piccolo foglietto molto colorato, fluo, quindi non puoi non vederlo. A cosa serve? Vi preannuncio già. Se mentre stiamo ascoltando la parola di Dio, già ti viene in mente che cos'è quella cosa che tu definisci oggi spazzatura, di fronte alla conoscenza di Cristo, cos'è quelle noccioline che ti stanno tenendo bloccato e ti stanno impedendo di afferrare Cristo? Qual è quel peso? Qual è quel peccato? Qual è quella situazione? Qual è quello status che vuoi gettare nel bidone della spazzatura? Segnalo su quel fogliettino. Puoi già incominciare a fare questo, perché poi lo utilizzeremo, perché oggi vogliamo gettarle queste cose. Fisicamente anche, è un atto simbolico, ma fisicamente le vogliamo gettare nel bidone della spazzatura, credendo che Dio ci libera da tutto questo per l'autorità che abbiamo in Cristo Gesù. Perché? Galati 2:20, leggiamo, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, io la vivo mediante la fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ci piace questo verso, lo mettiamo sui bigliettini degli auguri, ce l'abbiamo affisso in casa probabilmente, ma è tosto come concetto. Devo essere conforme alla morte di Cristo. Questo sta dicendo questo verso. Muoio a me stesso, Cristo vive in me. E questa vita che poi io vivo praticamente nella carne, quindi nel mio corpo, la vivo mediante la fede. Quindi una prospettiva completamente rinnovata che si distacca dalle cose di questo mondo e punta direttamente lassù a Gesù. E tutto questo è pratico, è molto molto pratico, non è concetto, non è idealizzazione di una vita per cui dobbiamo ascendere, a distaccarci dalle cose di questo mondo ed esserne fuori. Noi non possiamo essere fuori da questo mondo, ma possiamo camminare in questo mondo in piena differenza. Lo dice la Bibbia, come morti fatti viventi. E tutta questa storia finisce bene, perché dice, al fine di giungere, in qualche modo, alla resurrezione dei morti. Qui mi sono dovuto informare, perché sinceramente non c'avevo questa conoscenza. Sono molto molto, è buono. Quando leggiamo la Bibbia non è chiaro, Google ci può aiutare tantissimo, scegliete fonti, insomma, accreditate. Perché ha detto prima che dobbiamo essere, riconoscere la potenza della resurrezione di Cristo e poi ci parla di questa resurrezione. Ma di che resurrezione sta parlando? Ci sono due forme, due interpretazioni che normalmente vengono date. La resurrezione come atto simbolico, per cui l'Apostolo Paolo sta dicendo che lui risorge a nuova vita, come noi siamo risorti a nuova vita. E questo risorgere a nuova vita, l'Apostolo Paolo lo vede come qualcosa ancora da raggiungere. Infatti, chi va a supportare questa interpretazione si fa forte dei versi che verranno subito dopo, che però non vediamo oggi, perché è parte del messaggio della prossima settimana, per cui comunque l'Apostolo Paolo dice non che io abbia raggiunto già tutto questo. Quindi chi ha dato questa interpretazione, anche perché c'è in qualche modo, sembra che voglia mettere, che l'Apostolo Paolo voglia mettere in evidenza una certa incertezza da parte sua ad aver raggiunto la vita nuova in Cristo. Ora, pur per buon senso, diciamo così, sappiamo chi è stato l'Apostolo Paolo. Se io potessi essere tanto così quanto l'Apostolo Paolo, già sarei tanto felice. Quindi non penso che lui, per quanto non avesse raggiunto la perfezione, fosse in un dubbio a dire, io non lo so se sto centrando bene l'obiettivo. Qui siamo dopo 20 anni dalla sua conversione e in 20 anni ne ha passate di cose, ne ha fatte di esperienze. Alti e bassi ne avrà vissuti, avrà imparato sicuramente a conoscere Cristo. La seconda interpretazione è molto più attenta al testo, perché l'Apostolo Paolo, proprio per evitare, dubbi, non usa la stessa parola che ha usato prima, parlando della risurrezione di Gesù Cristo, anastasin, ma aggiunge un piccolo suffisso all'inizio, ex anastasin, che significa la risurrezione di dopo. Quindi, che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Che in qualche modo, non perché è incertezza, ma seguendo una qualche via, una qualche situazione, una varietà che c'è nella grazia di Dio, che è multiforme, ad ognuno di noi è dato di avere speranza di poter raggiungere quel giorno glorioso. Quel giorno in cui vedremo Gesù faccia a faccia, quel giorno in cui ogni peso, ogni peccato, ogni malattia sarà completamente annullato. E la bellezza di quel giorno noi non la possiamo comprendere. Però io mi sforzo con l'immaginazione di pensarlo quel giorno. E sarà straordinario. E in qualche modo, in tutti i modi, io oserei dire, io voglio arrivarci a quel giorno. E so che lo vuoi anche tu. Perché è la volontà di Dio che tu possa arrivare a quel giorno. Sapete in poche parole l'Apostolo Paolo di che cosa ha parlato in tutti questi versi? Di queste tre cose. Giustificazione, santificazione, glorificazione. Che sono il percorso della vita del credente. Giustificati per fede. È una posizione che acquisiamo per grazia, non la possiamo meritare. Ma da lì poi inizia la conoscenza di Cristo, la nostra santificazione, nella prospettiva della glorificazione, quando i nostri corpi verranno glorificati e saremo nella gloria del Padre. E tutto questo io lo voglio vivere al meglio, per quello che posso. Sapendo che non sarò mai perfetto, non sarò mai pienamente capace, ma non devo preoccuparmi di questo, perché l'efficacia della potenza di Gesù è più che necessaria e sufficiente per poter raggiungere tutto questo. A me è dato semplicemente di essere connesso, mente, anima, corpo anche, e spirito soprattutto, allo Spirito di Dio, perché è Lui che mi guiderà e mi guiderà nell'essere partecipe alle sue sofferenze, quando dovrò ancora mettere a tacere il mio io, le mie aspettative, i miei interessi, e prendere invece tutto il bello che Dio ha per me, perché Lui non chiede, non toglie soltanto, ma dà. Ecco perché chiede e toglie, affinché possa dare. E così potrò affrontare le irritazioni di questo mondo, potrò abbassare il mio senso di giustizia e fidarmi di Lui, guardare a Gesù, a come Lui ha fatto, e capire che il mio processo è ciò che Lui ha pensato, la mia vita è ciò che Lui ha pensato, come una preparazione al giorno in cui Lui tornerà. Perché questo è. La conoscenza, quindi la relazione con Cristo, è ciò che ci permette di essere sempre più simili a Lui. Ecco perché lo scopo della vita del cristiano è conoscere Cristo, perché quella relazione mi permette di poter diventare più simile a Lui, avere comunione con Lui nelle sofferenze, ma anche nelle gioie. Avere parte con Lui, essere trovato in Lui per l'eternità. E sul vostro foglietto c'è questo verso bellissimo, che 2 anni fa, più o meno, quando ho comprato casa, ho messo lì per ricordarmi. Leggiamolo, non riesco a ricordare la memoria, lo so a memoria, però adesso no. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Tu sei stato chiamato alla vita eterna. Combatti questo combattimento con Gesù. E sapete di che combattimento si sta parlando? Proprio del morire a noi stessi. Di non accettare le cose che sono spazzatura. Di non trovare compromessi. Di non cercare vie alternative. E ogni giorno io afferro la vita eterna, non nel senso di prenderla, perché non la posso prendere, nel senso di tenermi stretto. Io penso, quando leggo quel verso la mattina, penso ai maniglioni dell'autobus o del treno, che se non ti tieni, voli, vai via, cadi. Afferra la vita eterna. Non permettere alle giornate, non permettere alle situazioni, non permettere a te stesso e a nessun'altra cosa, a nessun'altra persona, anche solo di farti pensare di lasciare, perché è troppo pericoloso, è un danno. Con Gesù possiamo liberarci della nostra spazzatura. Se hai preparato quel biglietto, mentre avremo un tempo qui di ancora adorare Dio insieme, io ti chiedo, Carmine, puoi venire? Ti chiedo di prendere quel foglietto e venire a gettarlo qui. Il bidone ora verrà portato qui giù, e fallo come atto simbolico, ma dal grande valore spirituale. Dio vuole prendersi questa spazzatura. Gesù è super pronto per prendersela.